Se vi è un episodio noto in tutto il mondo, certamente è quello della passione e crocifissione di Gesù. Fiumi di libri sono stati scritti in merito, e perfino il Corano ne fa cenno, anche se nega che Gesù sia morto in croce. Un film dal titolo La passione di Gesù ha avuto un'affluenza nelle sale cinematografiche e un riscontro positivo tale da fare invidia ad altri spettacoli cinematografici. Ogni anno nel mondo cristiano si ricorda la sua morte e la sua resurrezione per Pasqua, sicché è impossibile non conoscere il tragico evento della passione e morte di Gesù. Però, a volte ci sono dei particolari che sfuggono, soprattutto quando si sente ripetere un racconto, sia perché ormai, conoscendolo, non ci facciamo più caso, sia perché non ne conosciamo alcuni aspetti. Proprio perché è importante conoscere alcuni particolari della passione e morte di Gesù, è opportuno rileggere ciò che ha scritto l'Evangelista Matteo. Ora Gesù comparve davanti al governatore, e il governatore lo interrogò dicendo: «Sei tu il re dei Giudei?» E Gesù gli disse: «Tu lo dici». Accusato poi dai capi dei sacerdoti e dagli anziani, non rispose nulla. Allora Pilato gli disse: «Non odi quante cose testimoniano contro di te?» Ma egli non gli rispose neppure una parola, tanto che il governatore ne fu grandemente meravigliato. Ora il governatore, in occasione di ogni festività, aveva l'usanza di rilasciare alla folla un prigioniero come essi volevano. Avevano in quel tempo un ben noto prigioniero di nome Barabba. Quando si furono radunati, Pilato chiese loro: «Chi volete che vi liberi, il Barabba o Gesù, chiamato il Cristo?» Perché egli sapeva bene che glielo avevano consegnato per invidia. Ora, mentre egli sedeva in tribunale, sua moglie gli mandò a dire: «Non avere nulla a che fare con quel giusto, perché oggi ho molto sofferto in sogno, per causa sua». Ma i capi dei sacerdoti e gli anziani persuasero le folle a chiedere Barabba e a far morire Gesù. E il governatore, replicando, disse loro: «Quale dei due volete che vi liberi?» Essi dissero: «Barabba». Pilato disse loro: «Che farò dunque di Gesù chiamato Cristo?» Tutti gli dissero: «Sia crocifisso». Ma il governatore disse: «Eppure, che male ha fatto?» Ma essi gridavano ancora più forte: «Sia crocifisso!» Allora Pilato, vedendo che non otteneva nulla, ma che anzi il tumulto cresceva sempre più, prese dell'acqua e si lavò le mani davanti alla folla, dicendo: «Io sono innocente del sangue di questo giusto, pensateci voi». E tutto il popolo rispondendo disse: «Sia il suo sangue sopra di noi e sopra i nostri figli». Allora egli gli darò loro Barabba, e dopo aver fatto flagellare Gesù lo diede loro, perché fosse crocifisso. Matteo 27:15-26. L'episodio del processo di Gesù faceva parte del normale scorrere quotidiano al tempo di Pilato. Era consueto che di tanto in tanto Pilato dovesse presiedere a un processo per deciderne la sentenza. Vedere gli episodi storici dei Vangeli come eventi particolari e eclatanti distoglie da coglierne il lato umano. La nascita di Gesù e la sua vita per i contemporanei non era nulla di particolare, anche se tutto può dichiararsi miracoloso. Quando Gesù faceva dei miracoli era normale, perché altri profeti prima di lui avevano fatto miracoli. Non sarebbe stato nella norma se Gesù avesse avuto due teste o sei dita per mano, ma poiché era considerato un profeta, era normale che fosse anche citato per la sua fede. Così, il quadro che abbiamo di Gesù comparso davanti a Ponzio Pilato per essere giudicato rientrava nel normale corso della vita pubblica del popolo ebraico. Era il periodo della Pasqua ebraica, ed era anche normale che Gerusalemme fosse accalcata di gente, di persone religiose tese a ricordare la liberazione del popolo di Israele dalla schiavitù di Egitto. Ma, proprio in questo periodo, Pilato si trova di dover giudicare l'innocenza o la colpevolezza di un uomo. Questa volta però sotto giudizio non era un uomo come gli altri, perché l'accusa rivoltagli era di ritenersi il re dei Giudei e di affermare di essere il Cristo. Molto probabilmente a Pilato la prima accusa suonava comprensibile, perché essere re era forse anche la sua ambizione, ma che Gesù si definisse il Cristo lo capiva in chiave greca. Per i Giudei il Cristo era il figlio di Dio, cioè Dio stesso, Per i greci il Cristo poteva essere un uomo dotato della stessa la natura divina di uno degli dei da loro adorati. Comunque, Pilato si trova ora ad avere una patata bollente nelle mani perché non ignorava il favore goduto da Gesù presso il popolo in virtù dei suoi molteplici prodigi, ma conosceva anche a fondo le perverse mire dei capi della nazione. Avrebbe voluto liberare Gesù perché in lui non aveva riscontrato nulla di colpevole, ma non sapeva come fare. Gli viene in aiuto la sorte. Si dà il caso che per Pasqua, secondo un costume non ebraico ma romano, vi era l'usanza di graziare un prigioniero, chiunque egli fosse. Pilato aveva l'occasione buona per liberare l'uomo innocente, soprattutto quando i giudei gli presentarono un altro prigioniero colpevole di sommossa e omicidio. Tra Gesù e quest'uomo non c'era confronto, e Pilato era quasi sicuro di riuscire nel suo intento. Il nome dell'omicida era Barabba, nome che risulta 10 volte nei Vangeli. Un nome come tanti altri si potrebbe notare, e questo è vero dando ancora una volta la prova che gli eventi profetizzati trovavano il loro compimento negli eventi normali della vita. Però in questa occasione vi era qualcosa di particolare. Il nome Barabba, in aramaico è Baraba, che significa figlio del padre. Un significato anche questo usuale. Ma si dà il caso, come si suol dire, che anche Gesù è il figlio del padre. Altri codici antichi della Bibbia precisano che il nome dell'assassino era Gesù Barabba o Gesù il Barabba. Vedi, Nuovo Testamento greco e italiano, EDB, 1991. 101 e Nuovo Testamento interlineare, San Paolo. Questi particolari danno del processo di Gesù un quadro unico. Pilato dunque aveva davanti a sé due uomini dal nome di Gesù, nome che tra l'altro non era così raro. Nella sua genealogia Gesù aveva un antenato con il suo nome e al tempo degli apostoli l'apostolo Paolo incontra un uomo dal nome Bar Gesù. Qualcuno potrebbe anche sospettare che sia una forzatura considerare che il ladrone Barabba si chiamasse Gesù Barabba, ma se rileggiamo il testo del Vangelo nulla impedisce di arrivare a questa conclusione. In effetti, la domanda che pone Pilato ai giudei è molto significativa. Chi volete che vi liberi il Barabba o Gesù, chiamato il Cristo? Così leggiamo nella versione greca. Alla luce di quanto abbiamo considerato, la domanda di Pilato acquista un accento particolare, e cioè: volete che vi liberi Gesù il Barabba o Gesù detto il Cristo? Così la folla davanti a sé aveva due Gesù. Uno era un ladrone e assassino certo, l'altro era ritenuto il re di Israele e figlio di Dio. In quel momento la folla non poteva essere sedotta da un uomo con un nome particolare, con un aspetto esclusivo, perché Gesù era un ebreo tra gli ebrei. Non aveva nulla di affascinante come lo presentano nei film, nulla di seducente. La folla aveva davanti a sé un comune ebreo che non ispirava sentimenti di attrazione. E è importante vedere le cose come sono in realtà, giacché siamo fin troppo guidati dalla nostra fantasia. Troppi pensano che se fossero stati presenti al processo di Gesù avrebbero preso la sua parte. Nulla di più falso. E necessario ripetere che i piani di Dio si svolgono ai nostri occhi come per caso, si adempiono intrecciandosi, accavallandosi, unendosi alle nostre normali attività della vita. Il Dio dei cristiani è talmente umile che preferisce nascondersi anziché essere cercato per la gloria umana. Il processo pubblico di Gesù fu dunque uno dei tanti processi, anche se qualcosa di particolare accadde. Innanzitutto Pilato era stato avvertito dalla moglie di fare attenzione a come avrebbe trattato il prigioniero, perché egli era un giusto. Pilato stesso disse davanti a tutta l'assemblea: «Io sono innocente del sangue di questo giusto, pensateci voi». Forse in qualche modo Pilato sperava che la folla scegliesse Gesù chiamato Cristo, ma non aveva fatto i conti con i capi religiosi che persuasero la folla a scegliere Gesù il Barabba. Poiché i rapporti tra Pilato e Cesare non erano molto buoni, e poiché il primo non voleva che all'imperatore arrivasse la notizia dell'esistenza di un altro re, Pilato inscenò l'atto plateale di lavarsene le mani e disse: «Io sono innocente del sangue di questo giusto, pensateci voi». I giudei compresero molto bene il gesto di lavarsi le mani perché quella pratica era in uso tra loro nella cerimonia religiosa fin dai tempi antichi. Ma nonostante tutto, sebbene Pilato si fosse confessato innocente e avesse attribuito la responsabilità al popolo, non era di certo esente da nessuna responsabilità. Questo infausto episodio si ripete ogni giorno. Il nome di Gesù ormai non dice più di tanto. È un nome tra i tanti nomi dei fondatori di religione. Spesso un personaggio storico, politico o dello spettacolo suscitano più attrazione o fascino di un uomo che muore in croce. Apparentemente nel messaggio del Vangelo non vi è nulla di particolare o di attraente. Esso parla molto di cose passate, di speranze future, ma sembra che non abbia nulla da offrire al presente. Ma l'apparenza inganna. Oggi, come ha ingannato la folla che stava davanti ai due Gesù, come del resto ha ingannato Pilato. Pilato sapeva che Gesù era un giusto. Aveva avuto la conferma da sua moglie, la folla non aveva addotto una sola valida ragione che gli facesse meritare la sua condanna. Eppure lasciò Gesù in balia della folla inferocita, lavandosene le mani e dichiarandosi innocente. Ma innocente non lo era. Così è oggi. Ci sono persone che conoscono il processo, la morte e la resurrezione di Gesù, ma non si schierano dalla sua parte. Lasciano che Gesù e il regno di Dio vengano disprezzati, umiliati, crocifissi. Alcuni non sono contro, ma rimangono in mezzo alla folla inferocita. Tutti si dichiarano innocenti. Ma, come Pilato, innocenti non sono perché Gesù ha detto che non esiste la neutralità nei suoi confronti. O si è dalla sua parte, diversamente, si è contro. Matteo 12.30. Se non ci fosse stato il processo, il nome di Gesù il Salvatore poteva essere attribuito a chiunque, ma ora sappiamo che di uomo morto in croce per i peccati dell'umanità ce n'è è uno solo. Gesù chiamato il Cristo, cioè il Figlio di Dio. Gesù chiamato Cristo è morto al posto di Gesù chiamato il Barabba, per salvarlo e portarlo in cielo. Gesù chiamato il Cristo è morto pure anche per te, perché anche tu sei un Barabba, un figlio del Padre, perché Dio ti ha chiamato all'esistenza e per questo non puoi rimanere indifferente. Per un buon contributo. RT France Il Vangelo di Matteo Edizioni GBU 2004 pag. 557. Settembre 2005. Ellero.